soldi per la campagna, la mia piscina diventa il mar. Ma per un tipo come me tutto bene va, non è un problema poi così terribile stare in città, la la la, se non ho i soldi per la campagna, la mia balera diventa una. La luna che risplende là, splende pure qua, se chiudo gli occhi poi comunque trovo la felicità, la la la. Io non dovrò spedire tante cartoline, saluti e baci lo scriverò, wow, wow, wow. Se non ho i soldi come noi, tutto bene va, chi si vuol bene può volersi bene anche qui in città.